Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 3 marzo è stato varato il decreto di recepimento della direttiva europea 28/2009 per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Il decreto, nella versione appunto italiana, è conosciuto come decreto rinnovabili e ha riordinato abbastanza complessivamente la materia delle rinnovabili, anche con, diciamo, incursioni nell'efficienza energetica, con ricadute decisamente ad ampio raggio, o almeno così avrebbe dovuto essere, perché il decreto, fatto tra l'altro quando i termini per il recepimento stesso del decreto erano praticamente scaduti, quindi in fretta e furia, rimanda in realtà a tutta una serie di decreti attuativi per fissare i contenuti veri e propri, che sono quello che poi ci interessa. Ebbene, oggi gran parte di questi decreti attuativi non sono ancora arrivati, tanto che il Kyoto Club ha lanciato un'iniziativa sulle pagine di Qualenergia, il ritardometro, parliamo insomma di un sito che continua a segnalare, con la speranza che questo possa servire da stimolo al governo perché si dia una mossa a segnalare il ritardo che ormai è diventato notevole su questi interventi. Allora cerchiamo di capire quali decreti mancano e anche quali sono le conseguenze di questo ritardo con il direttore scientifico del Kyoto Club, Gianni Silvestrini. Buonasera Silvestrini. Buonasera a voi. Allora, partiamo con questo triste elenco, io direi, no, dei provvedimenti attesi. Se permette, vorrei parlare prima di efficienza energetica, perché non sono dei decreti esattamente previsti dal decreto madre. Sì. Detrazioni fiscali del 55%, non si sa se saranno prolungate l'anno prossimo, eppure hanno consentito di fare 1 milione di interventi questi anni sulla riqualificazione energetica degli edifici. Hanno funzionato molto bene, ne abbiamo parlato qui a Mr. Kilowatt, sono costati pochissimo, infatti continuiamo a fare qui la battaglia per il 55%. Esattamente. L'altro intervento sull'efficienza energetica che è molto importante e molto atteso è quello dei certificati bianchi, un altro strumento che ha funzionato bene e che in qualche modo ha visto l'Italia in anteprima sugli altri paesi europei che poi hanno copiato questo strumento, ma che anche questo termina nel 2012. Noi dovremmo sapere che cosa succederà da qua al 2020, e anche qui c'è attesa e quindi gli investimenti sono bloccati perché non si sa che cosa succederà, ecco, dopo 2020. Poi ne parliamo delle conseguenze di questi ritardi, partiamo con l'elenco. Ecco, invece sulle rinnovabili ci sono una serie di provvedimenti che sono in ritardo da 4 mesi, se voi andate sul sito vedete 119 giorni, altri da 3 mesi, altri da 2 mesi. Direi che quello più importante è quello cosiddetto del burden sharing, cioè la quantificazione degli obiettivi che ogni regione deve riuscire a raggiungere nel 2020. Perché è importante? Perché alcune regioni sono molto attive, altre sono esitanti o addirittura hanno preso dei provvedimenti che ostacolano la diffusione delle rinnovabili. Siccome l'Italia ha un obiettivo legalmente vincolante nel 2020 sulle rinnovabili, cioè il 17% dei consumi finali, se questo risultato non riesce a essere raggiunto, si l'Italia paga delle sanzioni. Quindi è importante che ogni regione venga responsabilizzata. Perché quindi faccia la sua parte. Poi ci sono dei provvedimenti che molto attesi che riguardano le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Il fotovoltaico, come sappiamo, in maniera molto contorto, uno scenario nei prossimi anni c'è e quindi in questo momento sta galoppando. Quest'anno il fotovoltaico in Italia addirittura avrà un record di installazione a livello mondiale. Diversa la situazione dell'eolico, per esempio, o delle biomasse, che aspettano questo decreto per sapere quali saranno i livelli delle incentivazioni. Poi c'è un tema molto caro a me, che è quello delle rinnovabili termiche, no? Soprattutto il solare termico. Esattamente, arriviamo lì perché questa è anche una grande novità. Mi ricordiamo che per raggiungere gli obiettivi del 2020 lo sforzo maggiore non verrà richiesto alle rinnovabili elettriche, ma a quelle termiche, certo, che dovranno più che triplicare l'attuale quota. Infatti. Quindi parliamo di solare termico, parliamo di biomassa, parliamo di geotermico a bassa entalpia e più in generale delle pompe di calore ad alta efficienza. Ecco, sono settori che si sta cercando, questo decreto dovrebbe fornire la strada, di incentivare con dei provvedimenti, si parla di un conto energia termico. Quindi qualcosa di simile al fotovoltaico, in pratica si riconosce un incentivo per la produzione di energia termica, un tot al chilo, diciamo così. Esattamente, esattamente. Questo sarebbe molto semplice da capire, è più complesso rispetto all'elettrico perché misurare i contatori di calore e così via. Però è una tematica che si può affrontare e risolvere se usciranno questi decreti ci sarà una grossa spinta in tutte le tecnologie che abbiamo detto, quindi le caldaie a biomassa, il solare termico, le pompe di calore, pompe di calore e così via. E poi c'è anche il biometano, perché se ne parla molto, no? Insomma, esatto. Si dice siamo senza nucleare ormai, siamo senza petrolio, però il metano ce lo possiamo produrre a casa nostra, e anche qui si aspettano delle, magari esatto, non tantissimo, ma ce lo possiamo produrre, e poi possiamo adottare due strategie. Una è quella di usare poi un cogeneratore e produrre energia elettrica, oppure, questa è la novità, metterlo in rete, e questo quindi consentirebbe, posso alimentare qualunque utilizzo, siccome l'Italia poi è super metanizzata, direi, insomma, sarebbe un'ottima cosa. Senti, ma qual è l'effetto, abbiamo pochi secondi, di questi ritardi? Beh, ci sono interi settori economici che sono in attesa di capire quali saranno gli incentivi, parliamo delle rinnovabili termiche, ma abbiamo detto dell'eolico, delle biomasse, e quindi sono in stand-by, investimenti molto grossi. Devo dire che in realtà c'è un gruppo molto ristretto di tecnici che stanno lavorando a questi decreti, e la riflessione è quindi a monte. Altri paesi per il settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica hanno delle squadre di tecnici che lavorano, che sono proporzionali alla ampiezza degli investimenti. Purtroppo in Italia c'è tecnici che stanno lavorando, ma sono troppo pochi rispetto alla mole di decreti, di consultazioni che devono essere svolte e così via. Risposta secca: alcuni decreti dovrebbero uscire tra poco, si parla di fine ottobre. È possibile? È realistico? Speriamo, è più probabile in novembre. Grazie Gianni Silvestrini. Grazie a voi, buonasera. Anche per stasera è tutto, appuntamento a domani.